Pronto? Pronto? Ciao, sono Vincent. Come sono arrivato ad Havana? Per una questione anagrafica io la vecchia Havana non l'ho mai vista. E tutto quello che so della vecchia Havana lo so dai ricordi di alcuni che l'hanno vissuta. Quando ho iniziato ad andare al forte, la stanza era già chiusa e non avevo nemmeno idea di cosa ci fosse dietro quella porta. Anni dopo, penso intorno al 2010, LeChuck, anche se lui probabilmente negherà, mi disse che gli sarebbe piaciuto riaprire Havana e non ricordo bene come, ma qualche tempo dopo ci ritrovammo in 3-4 ed iniziamo a sistemare un po' quel delirio, svuotandolo da quintali di hardware e polvere ammassati lì da decenni, poi l'impianto elettrico, la rete, il primo computer ed ovviamente come ogni progetto che parte o che riparte, l'annesso a mailing list svuotistici. Su una cosa probabilmente la nuova Havana che si stava riformando a quel tempo era diversa dalle vecchie. I tempi e le necessità erano cambiati tantissimo e noi volevamo essere più autistici, ma non il collettivo autistici, noi volevamo essere più autistici veramente. Zero iniziative pubbliche, niente corsi su Linux, niente riparazione di computer, nessuna gestione di siti internet. Vi chiederete il perché di tanto odio. Beh, noi vedevamo in queste cose dei mostri che finivano per consumare tutto il tempo a nostra disposizione e che ci distoglievano dalle cose che ci interessava veramente sviluppare. E così, con queste premesse, abbiamo iniziato le nostre prime serate nella stanzetta di Havana, a parlare di malware, whistleblowing, difesa digitale, crittografia. E spesso eravamo così autistici che ci ricordavamo della sala da tè soltanto quando ormai era troppo tardi. Cos'è successo dopo? Di lì a poco ci siamo ritrovati ad organizzare l'hack meeting all'Aquila, gli incontri e le assemblee che avrebbero permesso la scrittura di Crypt or Die, lo sviluppo di Fripto, che presentammo l'anno dopo durante l'hack meeting di Cosenza, e le presentazioni che ci hanno visto scorrazzare in tutta Italia ed anche all'estero a parlare di autodifesa digitale. Insomma, Havana era tornata decisamente in vita.